Mi trovo con Jessica Allegni, assessora regionale alla cultura, per parlare della quinta edizione di Sciroppo di Teatro, un progetto che coinvolge 7 province, 90 spettacoli e 31 teatri. Sciroppo di Teatro, già dal nome, è come una terapia medica che vede il teatro come presidio di salute, Jessica. Sì, esattamente così, è il teatro come prescrizione non farmacologica in questo caso, ma che viene effettuata dai pediatri dei centri per le famiglie, che prescrivono il teatro ai bambini tra i 3 e gli 11 anni e anche ai loro familiari e amici, perché il teatro, come le arti e la cultura in genere, come dimostrano anche diversi studi dell'OMS che vanno in questa direzione, è uno strumento fondamentale di cura e che favorisce la prevenzione e il benessere psicofisico, in particolar modo per le nuove generazioni. Quindi si va dal 6 gennaio al 12 aprile? Sì, sono 90 spettacoli distribuiti su 31 teatri, 30 comuni e 7 province del territorio regionale, numeri molto importanti, numeri importanti anche quelli della presenza di pubblico. Nell'ultima edizione sono stati quasi 18.000 gli spettatori, puntiamo ad aumentarli naturalmente, perché di anno in anno questa rassegna, che nasce nel 2021 in seguito alla pandemia, all'isolamento e alle distanze che questa genera, è sempre cresciuta in termini di presenze, per cui auspichiamo che questa cosa possa continuare a verificarsi. Tra l'altro i prezzi sono men che popolari. I prezzi sono a portata di tutti, 3 euro a persona, per cui assolutamente accessibili. Siamo nell'ambito davvero dell'accessibilità totale al teatro, all'arte e alla cultura, e ci dicevano anche i rappresentanti di Ater Fondazione, che coordina questo straordinario progetto, che lo studio del pubblico delle precedenti edizioni dimostra una presenza di famiglie, cittadini e bambini che a teatro non c'erano mai stati prima che ci fosse Sciroppo di Teatro. E tra le altre iniziative per la crescita di comunità, sentivo ad esempio accennavi a un kit di lettura e ad altre cose. Sì, abbiamo in progetto di partire nell'anno in corso con un kit di lettura per i nuovi nati, che verrà distribuito a tutti i nuovi nati della regione Emilia-Romagna, coinvolgerà naturalmente soprattutto i genitori in questo primo approccio alla lettura. Anche qui ci sono studi che dimostrano come avvicinare i bambini fin da neonati ai libri sia un elemento di crescita veramente importante e significativo, così come c'è un vasto panorama di proposte artistiche e culturali che vanno nella direzione del welfare culturale nella regione Emilia-Romagna. Abbiamo la rete dei musei Mother per le demenze e l'Alzheimer, abbiamo il teatro No Limits del centro Diego Fabri di Forlì, insomma veramente tante esperienze che si sono consolidate nel tempo e che vogliamo mettere a sistema sempre di più.